America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Over the last few years, however, the terrorist threat has evolved into a new phase. As we've become better at preventing complex, multifaceted attacks like 9/11. Terrorists turn to less complicated acts of violence, like the Barack Obama, il presidente americano, ha chiamato Angela Merkel per esserle davvero vicina nel momento in cui la Germania ha subito un attacco terroristico non diverso da quello che abbiamo visto a Nizza. La percezione qui in America, a New York, nel mezzo della stagione natalizia, che una cosa di questo genere possa capitare, assolutamente anche qui possa capitare a New York. Voi immaginate l'atmosfera di Rockefeller Center, del grande, grandissimo albero natalizio. Al centro di questa piazza, sotto c'è la pista di pattinaggio, insomma è un'atmosfera di assoluta festa, le vetrine illuminate dei negozi di Saks Fifth Avenue subito davanti e appena pochi isolati più sopra la Trump Tower, dove il presidente eletto che tra l'altro ormai è eletto ufficialmente, questo lo vedremo con maggior dettaglio dopo, ma i voti ormai ci sono tutti, dove il presidente eletto, vi dicevo, risiede, incontra i suoi ministri. Ecco, per darvi un'idea, le strade attorno alla Trump Tower, soprattutto la strada da cui si entra, è chiusa nelle due direzioni, è chiusa fra la Quinta e la Sesta Avenue ed è chiusa fra la Quinta e la Madison Avenue. Ci sono camionette della polizia, ci sono esperti antiterrorismo, insomma il livello di allerta era già massimo, ma dopo quello che è successo a Berlino, devo dire, la tensione è salita ancora di più. Ecco, certo, un obiettivo come il Rockefeller Center per i terroristi sarebbe importante. Il fatto è che sono obiettivi molto ben protetti e magari i terroristi, proprio come è successo a Berlino, secondo fonti della polizia, possono colpire con maggiori probabilità di successo in zone remote, in zone decentrate, lasciando lo stesso un segnale molto forte. Ecco, ma non c'è soltanto quello che è successo a Berlino, come abbiamo continuato a ripetere qui a Radio 24, e beh, c'è stato anche il tragico, raccapricciante assassinio ad Ankara dell'ambasciatore russo Andrei Karlov per mano di un fanatico islamico, Mevlut Mert Altrintas. Avrete visto molti di voi il video, devo dire, è davvero un video agghiacciante in cui si vede questo signore che spara 8 colpi di pistola e uccide sul colpo in diretta televisiva l'ambasciatore russo. Ecco, sentite qui la voce dell'assassino Mevlut Mert Altrintas, che si agita con questa pistola in mano e che urla: noi moriamo ad Aleppo e tu muori qui, Allah è grande, Allah Akbar, Allah Akbar. Questo messaggio assolutamente identificabile nella registrazione che ascoltiamo in questa tragica diretta. Ecco, questa coincidenza dal punto di vista americano non è casuale, un attentato a Berlino e quasi simultaneamente l'uccisione dell'ambasciatore russo. Tra l'altro, come sapete, le relazioni fra Turchia e la Russia sono molto tese. La Turchia aveva abbattuto un jet russo proprio perché questi jet colpivano popolazione sunnita in Siria e dunque c'è stato un intervento, secondo molti assolutamente precipitoso, da parte dell'aviazione turca e su ordine ovviamente del presidente Erdogan per disturbare o comunque abbattere questo jet. Si stavano queste relazioni appena riavvicinando. A questo punto non sappiamo cosa farà la Russia, sappiamo che farà sicuramente qualcosa, ma qui si apre davvero uno scenario piuttosto interessante. Sentiamo. Russia wants to get rid of ISIS as much as we do, if not more, because they don't want them coming into Russia. Let Russia fight ISIS if they want to fight them. Let them Donald Trump, che ieri è diventato ufficialmente, perché a questo punto tutte le liturgie del voto si sono concluse, il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Manca soltanto la liturgia del giuramento al Campidoglio, cerimonia sempre emozionante e memorabile. Il 20 gennaio sarà quello il giorno in cui, dopo il giuramento, dopo la parata, Donald Trump entrerà alla Casa Bianca, prenderà possesso dell'ufficio ovale e dovrà cominciare ad occuparsi materialmente di questi problemi. Vi ho fatto ascoltare non a caso una dichiarazione in cui Donald Trump dice che sconfiggerà il terrorismo e auspica che ci possa essere una collaborazione per la Russia in questa missione, che poi è una missione comune. Da Mosca, come vi ho detto, abbiamo sentito messaggi analoghi. Sentiamo Peter Bergen, uno dei maggiori esperti di terrorismo americani. It's actually a threat that we've managed pretty well. Nearly a decade and a half after 9/11, you know, on 9/11 there were 16 people on the no-fly list. Now there are 47,000. I mean, we've created our defenses are very good. That's what, ecco, Peter Bergen è un giornalista che aveva intervistato Osama Bin Laden, uno dei pochi ad aver intervistato Osama Bin Laden, grande esperto di Medio Oriente. A questo punto si dedica all'analisi, alla scrittura di libri, e in un'intervista con la CNN ci dà un quadro geopolitico piuttosto interessante, perché da una parte la pressione sui terroristi è fortissima a Mosul, dove c'è uno stato d'assedio, Sirte in Libia è stata persa, dunque i terroristi sono in ritirata, sono sotto assedio, cercano di colpire per far vedere che ancora ci sono, ma in realtà, e qui dobbiamo dare credito a Barack Obama, devo dire, perché ha avviato una lotta durissima contro l'ISIS, in realtà i terroristi si sentono assediati, sono in ritirata, per questo cercano di compiere questi atti disperati, ma compiendo questi atti non fanno che aumentare la determinazione dell'Occidente e in questo caso di un'alleanza plausibile fra Stati Uniti e Russia per sconfiggerli. E il problema, la questione è delicata naturalmente, perché soprattutto in Siria, Damasco, con Assad abbiamo un regime alawita, dunque vicino agli sciiti, vicino all'Iran, vicino a Hezbollah, mentre la maggioranza della popolazione è sunnita, e sunnita era il terrorista che ha ucciso l'ambasciatore russo dicendo: ecco, voi avete raso al suolo Aleppo e dunque pagate anche voi in questa vostra presunta sicurezza per le morti e per le uccisioni che sono state compiute. Una equazione molto difficile, una giornata di profonda tristezza, ma il mondo va avanti naturalmente, andrà avanti con la presidenza Trump, che diciamo ha tutte le caratteristiche e i presupposti, grazie anche alla scelta di un segretario di Stato, Rex Tillerson, molto vicino a Putin, per recuperare il rapporto con Mosca. E al di là delle polemiche che ci sono state e continueranno sulle intrusioni degli hackers, beh, ci sono degli obiettivi di sicurezza nazionale che possono prevalere o comunque essere portati avanti in modo parallelo, e credo che Putin e Trump su questo terreno potranno intendersi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vi è più tempo difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, una giornata tristissima quella di ieri, una giornata che, dovendo pensare a delle canzoni natalizie che possano tirarci su il morale, darci un minimo di speranza, beh, non posso che proporvi una canzone sobria ma molto bella e di grande ispirazione. Silent Night di Frank Sinatra. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.